Sai su Radio Wombat. E benvenuti, stasera è una puntata storica di 8 Hertz, ma anche un po' per la radio. Infatti in questo programma, ma credo forse anche nella radio stessa, trasmetteremo un live direttamente suonato qui alla regia della radio, come in tutte le radio serie e grosse di questo pianeta. E a fare da pioniere è THX, ovvero Riccardo Tassi, che è molto conosciuto come personaggio nell'area fiorentina, attivissimo in tutto ciò che riguarda live, compositore, DJ set, insomma fa un po' di tutto. In realtà è un personaggio che non è legato solo alla musica, ma anche a tante altre cose, ed è la cultura un po' underground che dagli anni 50 in poi ha un po' fissato su questo pianeta qualcosa di importante. Per esempio è appassionatissimo di fantascienza, di cyberpunk, quindi tutta la letteratura a seguito, e cinema. E anche fumetti, anche quindi le arti visive, insomma. Non so, poi passo la parola anche a lui, che così ci racconta qualcosa. Buonasera a tutti. Niente, non so che raccontare. Non racconta qualcosa, però ho dei link che vi posso dare per conoscere meglio il personaggio, che sono THX, che è il suo nome d'azione, thx138.noblogs.org, thx1138.noblogs.org. Poi un suo blog molto molto interessante, che si chiama streptos-music.noblogs.org, e poi anche il SoundCloud, che è, se cercate thx-vciclo-w, lo trovate, insomma. E diciamo che si muove tra l'hip hop, la sperimentazione industrial, i rumori, il funk, insomma, diciamo che ascolta un po' tutta la musica possibile e inimmaginabile, così come fanno un po' i produttori di musica e anche di basi nel settore hip hop. Quindi non so stasera minimamente cosa suonerà, però ha diverse macchinette, diversi pedalini e anche un synth, e insomma lo ascolteremo volentieri. Non so neanche quanto durerà. Niente, lanciamo il live, che dici? Ok, lo lanciamo e buon ascolto. Radio Wombat 8 Hertz, THX dal vivo qua dentro in regia. Thank you. Thank you. America is a vast speedway. People line the streets to witness the greatest drivers on earth in a race from sea to shining sea. Because that's definitely. You finish first, or not at all. Jet Race 2000. Every car a deadly weapon. Every spectator a potential point. A cross-country road wreck, and the traffic is murder. Who are you? Frankenstein. National hero. Best driver on earth. I don't want you to die. He was built by the world's finest surgeons to drive the fastest car ever designed, and nothing can stop him now. Jet Race 2000, rated R. E con questo finale delirante di live chiudiamo la puntata contentissimo di avere avuto qua in regia THX con un live micidiale. Ci sono anche gli applausi da fuori, forse non li sentite, e lo ringrazio tanto, ringrazio anche voi che l'avete ascoltato. Grazie a te per l'invito. Figurati. Vi ricordo che insomma, di ascoltare Radio Wombat per chi si è connesso per questa cosa, ma c'è un grande numero di programmi che stanno crescendo sempre di più, dalla classica al progressive, alla linguistica, ai programmi contenitori. Insomma, se date un po'... Se guardate un po' l'elenco delle trasmissioni, il palinsesto che è nel sito, che conoscete, se no non c'entravate, potete un po' vedere. Vi ricordo anche che c'è il Twitter, ci sono i Facebook, c'è la mail che è postawombat@insiberia.net e poi vi ricordo che esistono i wombat, che sono molto carini come animali e fanno la cacca cubica. E noi ci sentiamo giovedì prossimo per una puntata ovviamente completamente diversa. Ciao e grazie a tutti.